Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan che legge le notizie attraverso il filtro dell'animalità. Questa redazione cerca gli altri animali, potremmo anche dire gli animali altri, la loro condizione, il modo in cui vengono considerati, pensati, immaginati, negletti o protetti. In ogni tipo di dibattito, quindi nelle notizie di attualità, cultura, economia, medicina, alimentazione, filosofia, spiritualità. Nella puntata di oggi parleremo della condanna a morte per l'orso MJ5 decretata dalla provincia di Trento. Parleremo della legge spagnola per il benessere animale che è in corso di discussione al Senato nella penisola iberica. Gioiremo insieme a voi e insieme alle volpi scozzesi per il superamento della violentissima e antiquata caccia alla volpe a cavallo. E ci godremo insieme la recensione di un film bellissimo che guarda il mondo attraverso lo sguardo di un asino, curata dal nostro Emilio Maggio. Non mancheranno una ricetta vegana, cruelty free, a tema e tanta buona musica, curata dal nostro Gianluca Masala. Speriamo di avervi incuriositi. Domenica 5 marzo scorso un escursionista 39enne a passeggio con il cane nel bosco a Rabbi in Trentino è stato aggredito da un orso che, secondo certe fonti, lo avrebbe morso sulla testa e su un braccio. L'escursionista in questione è anche il fratello del sindaco di Rabbi. L'orso che ha aggredito sembra essere MJ5, un maschio di 18 anni, il secondo orso più anziano del Trentino dopo la femmina KJ. Nato nel 2005 da Maya e Jose, orsi sloveni che hanno dato l'avvio al progetto Life Ursus sulle Alpi negli anni 90. Come accade, purtroppo, sempre più spesso in casi come questo, nessuno si chiede come sia avvenuto che un orso, animale così schivo, e soprattutto questo orso, che non aveva mai dato nessun tipo di problema, improvvisamente aggredisca. Forse la presenza del cane, magari senza guinzaglio, potrebbe fornire qualche indizio. Tuttavia, si preferisce ancora e ancora condannare a morte l'orso, ritenendola un'operazione tranquillizzante verso l'opinione pubblica. «Non ci nascondiamo dietro un dito su quello che occorre fare», ha affermato il presidente della provincia autonoma Fugatti, facendo capire che è disposto a fare affermazioni scomode, di cui altri probabilmente si vergognerebbero. «Noi abbiamo nei boschi un soggetto che ha messo a rischio la vita di una persona. Ognuno si assume la propria responsabilità. Cerchiamo di rispettare i protocolli e le leggi», ha ancora affermato Fugatti, sottintendendo che osservare i protocolli e le leggi sia un tentativo in fondo facoltativo, al quale però si può derogare per motivazioni di ordine superiore. Dopodiché ha continuato «Dobbiamo tutelare le persone, che già adesso sono impaurite». Quindi ecco qual è il teorema: un grande selvatico che si trova nel bosco, si comporta in modo difensivo, aggredendo probabilmente perché spaventato da un cane libero che lo minacciava, e magari il proprietario ha tentato di difendere il cane dall'orso, avvicinandosi più di quello che avrebbe dovuto. Ma del terrore del selvatico, del suo sentirsi minacciato e della sua autodifesa non interessa niente a nessuno. L'uomo è stato attaccato nell'habitat dell'orso e anche di questa invasione di campo non interessa niente a nessuno, interessa solo la temperatura dell'opinione pubblica, degli elettori di ieri e di domani, quindi le persone vanno tranquillizzate a ogni costo e a farne le spese sarà la vita dell'orso. «L'orso lo possiamo catturare la settimana prossima, come fra 6 mesi», ha aggiunto Fugatti. «Non sarà facile e nel momento in cui lo catturiamo dobbiamo essere sicuri che sia lui». Questa decisione ha scatenato varie reazioni da parte di realtà ambientaliste, animaliste, da parte di semplici biologi, ma anche personaggi che non ci aspetteremo mai, come per esempio Vittorio Sgarbi. Ebbene sì, un politico che non è certo animalista né tantomeno antispecista. Eppure, il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi ha pubblicato un appello al presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, perché impedisca l'abbattimento dell'orso MJ5. «Non abbattete quell'orso», dice Sgarbi. e spiega: catturarlo, monitorarlo, al limite ospitarlo in una riserva controllata, ma abbatterlo è un esempio negativo per la fantasia dei bambini, oltre che una manifestazione di impotenza della pur valorosa amministrazione provinciale nel trovare una soluzione che non evochi la deprecata guerra. Gli animali come l'orso, aggiunge Sgarbi, appartengono alla fantasia dell'infanzia e non possono essere considerati nemici da abbattere. Esorto il presidente Fugatti a ispirarsi all'intelligenza e alle emozioni dei bambini. Gli argomenti che porta Vittorio Sgarbi, noi obiettiamo, sono sempre antropocentrici, perché si mette al centro l'impatto pedagogico dell'uccisione dell'orso, quindi il danno sarebbe quello rispetto alla fantasia dei bambini e non invece il danno dell'orso stesso, quindi si annulla l'orso come portatore di interessi propri, di individualità e di desideri suoi. Tuttavia i bambini è vero che rappresentano la fase umana forse più vicina alla dimensione animale, nella prospettiva della tenerezza e anche nel sentirsi fratelli in modo spontaneo e innato con ogni creatura vivente. Dopo l'aggressione, l'escursionista è stato trasportato in ospedale, ma è fuori pericolo. Resta in piedi però la condanna a morte dell'orso. Un errore sul piano politico e scientifico, secondo tutte le associazioni accreditate. Legambiente ha sostenuto che il Trentino non potrebbe decidere nemmeno in autonomia la gestione della fauna selvatica, trattandosi di proprietà indisponibile dello Stato. Il WWF ha stigmatizzato come la provincia autonoma di Trento continui a considerare l'orso come una specie naturalmente pericolosa, una posizione dal punto di vista scientifico impossibile da condividere. L'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, AIDA, ha parlato di una vera e propria ossessione del presidente della provincia. L'Ente Nazionale Protezione Animali, l'ENPA, ricorda a tutti l'alto rischio che la sedazione potrebbe rappresentare per un animale anziano come MJ5. In sostanza, se lo sedassero alla sua età, morirebbe. Le associazioni LAV, LEAL, LEIDA, Lega Nazionale del Cane e OIPA insistono su una dinamica diversa e sulla necessità di aprire una adeguata istruttoria, mentre non è stato neppure assodato che le ferite riportate dall'escursionista fossero effettivamente attribuibili all'orso. L'uomo si sarebbe ferito, secondo queste associazioni, perché è caduto. Pertanto potrebbe trattarsi del classico falso attacco. Infine, l'associazione Meta Parma ha aperto una petizione su change.org. La trovate digitando in rete Salviamo MJ5. Don't ever let them hurt you in any way. Or never let them steal and take the best of you. Keep building cities from the ground. We rise and wield the way. It's Kelpie Vibes. Don't ever let them hurt you in any way. Or never let them steal and take the best of you. Keep building cities from the ground. We rise and wield the way. Mother dalla provincia autonoma di Trento voliamo in Scozia, dove una delle più antiche cacce alla volpe è giunta al termine dopo, pensate, 252 anni. Infatti, il disegno di legge Hunting with Dogs, entrato in vigore all'inizio di questa settimana dopo essere stato approvato a gennaio, vieta la caccia e l'uccisione di mammiferi selvatici utilizzando branchi di cani, tranne in alcune limitatissime circostanze. Il Lanarkshire e il Renfrewshire Hunt, che si incontrarono per la prima volta nel 1700, hanno annunciato di avere tenuto il loro incontro finale. Siamo stati onorati di vedere l'enorme sostegno da parte di cavalieri e sostenitori per la nostra modesta caccia nell'ovest della Scozia, ha scritto il gruppo su Facebook. Ringraziamo anche tutti gli agricoltori e proprietari terrieri che ci hanno permesso di attraversare le terre in un tempo difficile durante gli ultimi anni. Dobbiamo un grande grazie a ogni singola persona che ha aiutato in qualsiasi modo nel corso degli anni. È stato tutto molto apprezzato. Infine vogliamo ringraziare i nostri adorabili segugi. Li accudiamo con grande amore e affetto, spesso meglio di noi stessi. Insomma, sono dei grandi amanti degli animali coloro che girano per le campagne ammazzando le volpi. Nata nel XVI secolo, la caccia alla volpe rimane un argomento molto controverso nel Regno Unito. I cacciatori lo considerano una parte importante del patrimonio locale, mentre gli attivisti per i diritti degli animali sostengono che sia crudele e inutile. Le organizzazioni anticaccia hanno precedentemente accolto con favore l'attuazione del disegno di legge. Questa notizia storica è un'enorme vittoria per la fauna selvatica. Tutte le persone contro la caccia e, naturalmente, i sabotatori hanno passato decenni nel tentativo di mettere in ginocchio questo tipo di caccia, ha detto il Glasgow Hunt Saboteurs sul suo sito web. E adesso è arrivato finalmente il momento di mettersi la caccia alla volpe con i cani dietro le spalle. Il fatto che sia stata vietata la caccia alla volpe non significa che sia stata vietata la caccia tout court. Se le volpi potranno forse tirare un sospiro di sollievo, ci sono tantissimi altri animali che continuano a essere nel mirino dei cacciatori. Speriamo che questo sia solo un passo nella direzione di una abolizione totale della caccia, in Inghilterra come nel resto del mondo. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way. Run a risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out, we can work it out. Life is very short. My friend, I have always thought that it's a crime, so I will ask you once again. Try to see it my way, only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out, we can work it out. Per festeggiare la fine della caccia alla volpe in Scozia abbiamo chiesto al nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni una ricetta vegana per una convivialità senza crudeltà dedicata appunto alle volpi. Sentiamo la proposta del nostro chef. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. L'incontro con la volpe per il piccolo principe è molto significativo e alla fine è lei a fargli comprendere il valore dell'amicizia. E oggi con la mia ricetta voglio rendere omaggio a questo bel racconto, perché l'essenziale è invisibile agli occhi, mica al palato. Ingredienti per 4 persone, per l'una morbida e stelle croccanti, sono 50 g di farina di ceci, 50 g di farina di grano saraceno, 50 g di farina di frumento, un pizzico di bicarbonato, un cucchiaino di aceto di mele, 2 carote viola, 2 patate dolci, 2 patate, olio extravergine di oliva, uno spicchio di aglio, un cucchiaio di salsa di soia, un cucchiaio di succo di limone, un rametto di rosmarino, sale e pepe. Preparate una pastella con la farina di frumento, il grano saraceno, la farina di ceci, un pizzico di sale, un cucchiaio di olio extravergine e acqua. Mescolate bene fino ad ottenere un impasto cremoso, non troppo liquido. Aggiungete il bicarbonato e sopra di esso versate l'aceto di mele. Mescolate ancora un'ultima volta. Mettete un filo di olio in una padella antiaderente e realizzate delle frittelle. Fate cuocere da entrambi i lati e lasciate raffreddare, quindi coppate ottenendo delle mezze lune. A parte pulite e sbucciate tutte le verdure e con l'aiuto di uno o più forme per biscotti ritagliate delle stelle di misure diverse. In una padella fate rosolare l'aglio in camicia con l'olio extravergine e il rosmarino. Unite le verdure e lasciate cuocere a fuoco vivo per qualche minuto. Bagnate col succo di limone e la salsa di soia. Fate glassare e lasciate cuocere fino a quando le verdure saranno cotte ma ben croccanti. Unite le lune, aggiustate di sale e pepe, mescolando delicatamente e servite. Gabriele Palloni è autore di alcuni libri di cucina. L'ultimo, edito da Newton Compton e fresco di ristampa, si intitola Se vuoi vivere sano, cucina vegana. Dalla Scozia ci spostiamo stavolta verso la Spagna, dove una nuova legge sul benessere animale ha creato tantissima polemica con novità positive e negative. Il Parlamento spagnolo ha approvato una nuova legge sul benessere animale, che ora dovrà passare al vaglio del Senato. Apprendiamo che l'iter di questa legge è stato molto sofferto e la sua approvazione ha lasciato sul campo alcune vittime innocenti di grande peso, come i cani da caccia e i tori delle corride. Sembra impossibile ottenere in Spagna al momento qualcosa di migliore del testo di questa legge, pur con le sue enormi e inaccettabili distinzioni di specie. Prima di tutto va denunciato il fatto che la nuova legge sul benessere animale spagnola, che prevede una maggiore protezione di tanti animali dall'abbandono e da maltrattamenti, ha escluso dalla tutela legale i cani da caccia, che pure sono tra le vittime più numerose, perché se è vero che le perreras spagnole sono un incubo, è anche vero che moltissimi dei loro ospiti sono proprio i cani da caccia, che quando non vengono abbandonati vengono addirittura giustiziati dai loro stessi proprietari cacciatori, appesi ai rami, lasciati morire soffocati, tant'è che esistono dei canali di adozione in Italia per i famosi cani spagnoli galgo. Approfondendo la questione, abbiamo letto che il Partito Socialista, lo PSOE, e il partito di sinistra, Unidas Podemos, si sono aspramente divisi sulla questione dei cani da caccia riguardo a questa legge. Dopo un lungo dibattito e dopo che il PSOE si è alleato con la destra sul punto critico dell'esclusione dei cani da caccia dalla tutela legale, il gruppo parlamentare Unidas Podemos, contrario fino all'ultimo a escludere i cani da caccia, ha dovuto cedere. Unidas Podemos, precisando di aver fatto tutto il possibile, ha accusato i socialisti del PSOE di aver fatto passare con la destra l'emendamento della vergogna, che esclude i cani da caccia da ogni tutela, e di avere ceduto alla lobby della caccia. L'industria venatoria spagnola vale circa 5 miliardi di euro l'anno. La Real Federazione Spagnola di Caccia, infatti, rappresenta 337.000 cacciatori e esercita fortissime pressioni sul dibattito, sostenendo che la tutela dei cani da caccia avrebbe decretato la scomparsa della caccia con i cani. Non sarebbe stato un grande dispiacere per noi e nemmeno per Guillermo Moreno, direttore generale dell'organizzazione animalista Equalia. Moreno sostiene che la legge che cerca di elevare gli standard di protezione degli animali non può escludere i cani da caccia, che sono i più maltrattati e abbandonati del paese. Oltre ai cani da caccia, restano esclusi dalla tutela legale anche i cani adibiti ad attività di pascolo e guardia del bestiame, nonché gli animali utilizzati in attività professionali, come per esempio i cani da soccorso, gli animali da compagnia utilizzati in interventi assistiti o gli animali delle forze dell'ordine, dei corpi di sicurezza e delle forze armate. Un altro macigno indigeribile è il fatto che dal dibattito sia stato completamente escluso il tema della corrida. Si è infatti ritenuto che la corrida non possa essere inclusa nella legge per mancanza di consenso nel governo. Ovviamente le associazioni animaliste hanno condannato questo atteggiamento, ma non c'è stato spazio per poter cambiare questo stato delle cose. Pensate com'è radicata la corrida in Spagna. Ma andiamo a vedere i punti fondamentali di questa legge, quelli considerati degli avanzamenti. Intanto ci sono regole stringenti contro abbandoni e randagismo. Secondo la nuova normativa spagnola, l'abbandono di animali è considerato un reato grave, punito con sanzioni da 10.000 a 50.000 euro. Sono previste misure di prevenzione dell'abbandono, per esempio un'anagrafe degli animali, in cui registrare anche informazioni relative ai proprietari. Anche i gatti di casa dovranno essere microchippati, si procederà con tante sterilizzazioni per ridurre la popolazione dei gatti, si vieterà la commercializzazione di cani, gatti e furetti nei negozi di animali e la loro esposizione al pubblico a fini commerciali. Le adozioni potranno avvenire solo attraverso centri pubblici di protezione degli animali o enti di protezione degli animali registrati. Infine, la nuova legge prevede che l'attività di allevamento di animali da compagnia può essere svolta solo da persone regolarmente iscritte all'albo degli allevatori di animali da compagnia. Ci sono poi tutta una serie di divieti per i proprietari di animali, che non possono utilizzarli per spettacoli, per turismo artistico, per attività pubblicitarie. Gli animali non possono rimanere soli più di 24 ore. Sono vietate pratiche violente e degradanti, come tenerli su terrazzi, balconi, tetti, ripostigli, scantinati, cortili. Infine, ci sarà un corso gratuito che tutti i proprietari di cani dovranno seguire. Tale obbligo era finora imposto solo ai proprietari di cani ritenuti di razze potenzialmente pericolose. E questo obbligo non è solo per le nuove adozioni, ma anche per chi già possiede un cane. Poi c'è il divieto di combattimento tra galli, che purtroppo era ancora consentito nelle Canarie e nell'Andalusia. E infine la legge prevede anche il divieto dei circhi con animali selvatici, come già avviene in buona parte delle comunità autonome. In caso di violazione è prevista una multa salatissima fino a 200.000 euro. La Spagna ha quindi fatto un primo passo, ma ha ancora molta strada da percorrere, in quanto al riconoscimento della dignità degli animali e alla tutela dei loro diritti. Di questa nuova legge si apprezza il tentativo di combattere gli abbandoni e il randagismo, incentivando le adozioni e vietando la vendita nei negozi, e anche il divieto dello sfruttamento degli animali selvatici nei circhi. Resta tuttavia l'amaro in bocca per l'esclusione dei cani da caccia dalle tutele previste dalla legge. Considerati come meri strumenti, continueranno questi animali a essere sfruttati, maltrattati, abbandonati e uccisi. E pesa come un macigno l'esclusione della corrida, non solo dalla legge, ma addirittura dal dibattito. È ancora lunghissimo il cammino da compiere. Per la parte culturale diamo la parola al nostro filmologo Emilio Maggio, vecchio amico della trasmissione Restiamo Animali, che ha curato per noi recensioni di tantissimi film su e con animali speciali. Tutte le recensioni potrete trovarle nella home page del nostro blog restiamoanimali.it, digitando nel campo della ricerca Emilio Maggio. Stavolta abbiamo chiesto al nostro filmologo la recensione del film E.O. del regista polacco Jerzy Skolimowski, un film uscito nel dicembre del 2022. La cosa che mi colpì in maniera particolare è che alla fine della proiezione avevo gli occhi pieni di lacrime. La visione di questo film mi ha cambiato radicalmente. Il grande Bresson mi fece capire che la morte di un animale può essere molto più veritiera, molto più toccante di quella messa in scena da un bravissimo attore nel suo miglior pezzo di recitazione. Trovai quello sguardo estremamente coinvolgente. Mi resi conto in quel momento che un asino sarebbe stato il mio unico protagonista e che nel suo peregrinare dalla Polonia all'Italia avrebbe guardato il mondo con la stessa espressione di tranquillità e lo stesso sguardo distante. Ecco, queste sono alcune delle dichiarazioni rilasciate dal regista polacco Jerzy Skolimowski, filmmaker formatosi alla prestigiosa scuola di cinema di Lodz in Polonia insieme a Polanski, nel pieno delle nuove onde che rivoluzionarono il modo di fare cinema negli anni 60, a proposito della sua ultima prova cinematografica, quel Io, che con una semplice onomatopea riesce a dare la giusta connotazione a un titolo che traduce contemporaneamente sia il verso di un asino che il vissuto dello spettatore. Spettatore costretto ad assistere al calvario di un animale degno di considerazione solo per le sue specifiche prestazioni lavorative. La storia, se possiamo usare questo termine nel caso del film piuttosto fuorviante, si riduce infatti a una catabasi, una discesa nell'inferno dell'umanità senza alcuna possibilità di ritorno. Discesa che inizia nel circo polacco in cui Io è costretto a prestare la sua forza lavoro fino al mattatoio italiano a cui è destinato nel momento in cui la sua vita diventa inutile per gli interessi del libero mercato, passando per rifugi, allevamenti, piccole fattorie e centri di pet therapy. Skolimowski firma, si può dire, alla veneranda età di 84 anni, forse il suo testamento cinematografico, rendendo omaggio al film che più lo ha segnato sia cinematograficamente che come persona, quel O Azar Baltazar, che in qualche modo ha determinato anche il mio interesse per la questione relativa all'animale cinematografico. Anch'io, come Skolimowski, e perdonatemi questo inciso personale, sono stato folgorato dal film di Bresson e anch'io ho pianto, commosso fino alle lacrime dallo struggente finale di O Azar. Io però non è un remake del capolavoro bressoniano. Se lo sguardo infatti di Baltazar imponeva il suo punto di vista fino a coincidere con quello dello spettatore, decostruendo la prospettiva antropocentrica del cinema classico, Io è in grado di far sperimentare a noi spettatori il vero movimento del desiderio di una bestia rispetto ai falsi movimenti dell'umanità. In questo senso sguardo e punto di vista non corrispondono più, come in Bresson, all'animale o all'umano, bensì alla dimensione onirica e alla memoria di un asino, alla sua capacità di elaborare un pensiero. Non è infatti lo sguardo di Io a guidare la visione dello spettatore, ma il suo pensiero fatto di sogni, ricordi e desideri. Insomma, Io è il cinema stesso. Il percorso di Io consiste nel ritrovare le origini del cinema a cui il movimento animale ha contribuito in maniera imprescindibile, determinandone storia e prospettive future. Questo però non mi impedisce di chiedermi, come si sono chiesti attivisti e attiviste, e persone particolarmente sensibili alla questione animale, se, pur mossi dalle migliori intenzioni come in questo caso, sia sempre lecito fare uso degli animali da set, che costituiscono un cospicuo bacino della cosiddetta animalità da reddito. Ma la questione meriterebbe di essere affrontata con maggior spazio a disposizione e magari in un'altra puntata. Per questa puntata è tutto. Vi saluto e vi dà appuntamento alla prossima settimana. La nostra redazione al completo, composta da Valentina Reggioli, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Anna Granata, Gianluca Masala, Francesco Panier, Valentina Baronti e la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio, quella di Camilla Lattanzi. L'appuntamento con la puntata numero 686 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta. Stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali.